Tra poco, dopo la pubblicità, ripercorriamo la vicenda politica, umana e giudiziaria del segretario del Partito Socialista Italiano. Pubblicità. Lo facciamo 1440 volte al giorno. Alla Welcome Italia siamo fatti così. Diamo sempre il massimo per fornire i migliori servizi di telecomunicazione. Così anche oggi abbiamo controllato una volta al minuto la stabilità delle linee di ogni nostro singolo cliente. E nel frattempo abbiamo risposto al 97% delle chiamate in tre squilli, perché il tempo dei nostri clienti è prezioso. Fidati, possiamo farlo anche per te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Ho visto stormi di uccelli volare alti nel cielo. Ho visto le mille sfumature di tramonti lontani. Ho visto tutta la perfezione racchiusa in un fiocco di neve. Ho visto campi di grano danzare al soffio del vento. Oh, certo che mi ci volevano proprio queste lenti Salmoiraghi. Solo da Salmoiraghi e Viganò trovi le lenti Salmoiraghi per vedere al meglio tutto ciò che ti circonda. Fino al 2 marzo la tecnologia delle lenti Salmoiraghi con le montature più fashion da 169 euro. Mancano circa 3 mesi a Forum Agenti Verona, la fiera dei colloqui di ricerca agenti. Se la tua azienda cerca nuovi agenti di commercio, oggi è il momento di agire. Vai su agenti.it, prenota subito il tuo stand a Forum Agenti Verona, perché incontrare gli agenti di persona vale più che ricevere 1000 curricula. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ore contate per Moro, spietato ultimatum delle Brigate Rosse al governo. Germania, crolla il muro. Il mondo è cambiato. Obama presidente entra nella storia. La nuova chiesa di Papa Francesco. Rivivi la storia del tuo quotidiano. Repubblica compie 40 anni e ti racconta in 12 volumi gli ultimi 40 anni di storia, con editoriali, cronache e commenti delle sue grandi firme. Domani il primo volume con Repubblica. Gestire un'azienda meccanica o alimentare non è la stessa cosa. Centro Software ha sviluppato soluzioni ERP specifiche per ogni settore industriale italiano. Alimentare, meccanico, chimico, cosmetico, elettronico, medicale, aerospaziale, automazione. Software gestionali ERP multilingua di ultima generazione, già utilizzati con successo da migliaia di imprese italiane con filiali in tutto il mondo. Centro Software e i suoi partner ti aspettano su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Se pensi che il rumore dei macchinari sia insopportabile, senti questo! Il silenzio dei macchinari danneggiati da un incendio è ancora più insopportabile. Ma con Belfor tutto tornerà presto come prima. Scegli il leader nel recupero dopo incendi, alluvioni e inquinamento. Con PIA, pronto intervento azienda, hai assistenza immediata e priorità di intervento. Vai su belfor.com o chiedi al tuo assicuratore. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane.